chi è? Buongiorno. Oh, bravo Antone, come mi ascolti? Bene, 8, radio 5. Siamo in fronte alla macchina, non c'è che ascolto un bel basso, però come mai? Il segnale è che si muove, bro. Come sarebbe a dire, ma si muove il segnale? Non lo so, non riceve bene. Guardi, per sentire un po' il problema devo alzare un bel volume. Sta che pompando. Va. Quello che devo essere da fermi, perché io sto uscendo bene. Stazionale non ne ho, però non riceve bene. Boh, l'antenna va bene, non è sulla capota, ma è sulla tappa dietro la ruota, dai, una ruota di corsa. Allora per quello. Perché ti sento Santiago 7? Radio 5 bomba, figurati. E io sto pompando, sono con lo spiri. Che strano, boh. Ti manca un po' di massa, boh, perché non è sulla capotta. E beh, se non ne sei vicino alla ruota, c'è problemi senz'altro di riflesso in quella macchina. Non posso fare altrimenti qua, dai. Purtroppo, è così. Non lo so, dai, adesso lascio così. Ho perso anche la brugola della regolazione dell'antenna, cavolo. Pure, tic, cos'è la P10.000? La stavo regolando, l'ho tolta una perché era mezzo spanata per cambiarla e mi è caduta lì da fianco al sedile, non l'ho più trovata. Perché sono cose piccole, cioè sono fini, capito, ecco perché non l'hai trovata. È come le vittine del microfono. Ecco qua, parla un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Adesso va bene, dai. Adesso sì, 9 più 10. Ehi, agganciato mi hai detto? Ehi, sono agganciato. Fai la prova liscio per vedere se siamo uguali. Aspetta. Staccato, guarda un po'. 6-7 con modulazione, quindi va bene, dai. E a voglia. Dai, ho trovato il problema, eccolo qua, dai. Cercavo di PL, bisogna risaldarlo. Di PL in corpo avevi? No, forse gli mancava un po' di massa. Ah, per quello, quei piedi che stiamo facendo adesso non servono a nulla. Una volta che li saldi, devi stare attenta come li muovi, se no se ne vanno in corto, boh. A volte funziona, a volte non funziona. No, ma gli metto uno di quelli vecchi in ceramica, gli metto uno di quelli, glielo cambio questo piccolo, gli metto quelli vecchi, è meglio. È meglio sì. Dai. Ok, però adesso va bene, stazione, siamo a posto. Mi manca qualche centimetro di antenna, mi manca. Ormai non la posso più allungare, perché con l'altra macchina l'avevo tagliata, l'avevo accorciata un po', e adesso invece risulta corta. Con una prolunga chi vuole? E vabbè, qual è il problema? Allunghi la carica, no? La smonti due minuti e gli aggiungi, quanto ne hai dato? Un centimetro di carica gli aggiungi all'interno della cosa, prende un pezzettino di filo e glielo aggiungi, glielo salvi dentro la bobina, e dentro la bobina, bravo. Un'altra volta di traccia, non sbaglio, avevo accorciato anche la bobina perché non riuscivo a passargli le stazionarie. Quindi ci mancano roba di 5-6 cm di antenna rispetto a quella normale, dai. E vabbè, devi fare la carica della bobina. Ora glielo fai la base, perché di solito puoi farla anche la base, è sotto. Io invece stavo pensando di fare qualche cosa da mettere dove sono le brugoline, dai, da attaccare lì e fare una specie di prolunga lì, sempre regolabile, dai. Poi vediamo alla studio, diciamo, qualche mio collega lì al tornio. E infatti dico di fare così. Avanti back. Ciao Lupo Grigio, salutoni, ben ascoltato. Prova, metto prova, segnale 3 comunque, mi stai arrivando a me. Aspetta, Lupo Grigio? Sì, Franco, tu vuoi mi ascolti che sto provando anch'io dalla barra mobile? Com'è il segnale? Allora, il microfono è normale, il microfono normale. Il segnale com'è? Va bene, dai, mi hai sentito comunque dopo tanto. Mi ascolta meglio qua che da casa comunque. Dai, stai bene. Avanti Alessio. Il K positivo, visto. Già viva. Adesso sono qua nei parcheggi delle ferrovie. Le ferrovie, ex ferrovie della Sardegna, dai. Quindi in Via Sicilia. Bene, dai, sono contento. Perché ho messo l'antenna però non sulla capota, ma l'ho messa con una staffa esterna sulla ruota. batteria. Ciao a tutti e due, allora. Cioè, sono qua d'ascolto che so che vendi qualche cosa, se riesco a farla. Sentiamo dopo. Antonello è un ubriaco tragico. Dai, non ce n'è, dai, si muove appena appena. Guarda, questi sono lo smitter dell'apparato, ora sto provando quello, lo smitter dell'apparato. Mi manca un po' di energia elettrica, che si abbassa il volume per centimetro, si abbassa. La stazione tiene uno e qualcosa, dai. Uno e mezzo, forse. Bene così, dai, grazie ancora per i controlli. Di niente, fa, non c'è problema. E bene, Natalino, ubriaco fragico. Natalino, sparito, E facendo cosa? Ah, oh capretto. Va bene, va bene. Ok, ok. Capavoce. Umbriacone tragico, sei tu, non sono io. Hai capito, bello bello? Ti faccio parlare con Muro. È sicuro che mi fai parlare con Muro. Già parlo con i carabinieri di Adda, hai capito? Cavallo all'asino. Ciao Antonio, buonasera. Ciao Franco. Franco si è allontanato, stava smontando l'antenna. L'antenna stava smontando. E io stavo smontando l'antenna, mi ha detto. Adesso. Ok. Bomba, bomba. Becca, ciao. Beh, sei titolo. Bomba, bomba. Ciao, Natali. Ciao, Cla, buonasera. Bisogna pompare ogni tanto, bisogna pompare. Se stai facendo lo smitter, no, che cazzo, la massa di nevaria. Piano piano bisogna fare. Adesso il primo mi prendo il 422 e così lo piazzo con la BV2001, lo piazzo. Che bello me lo sistemo. E utilizzo quello ogni tanto. Su che sta arrivando un bel forte. Quando ero a Sassari non me ne accorgevo perché eravamo troppo vicini. Minchia, sei più forte di Roberto. Roberto arriva a 9.30, fatti il conto. Cazzo, tu sei ancora più alto. Bene, bene. Ok, dai, sentiamo dopo. Sto facendo cosa? Sto finendo di sistemare fuori il giardino. Adesso che c'è un po' di fresco. Sì, taglia l'erba, tu taglia l'erba. No, Natali, non ne ho tagliato la verità, non ne ho tagliato neanche oggi, sto aspettando che asciughi bene il terreno, perché poi devo dare la medicina, l'antizecca, quegli antiparassiti, capito? E quindi sto aspettando che asciughi bene. No, stavo togliendo, sai, qui Saramina, di Simboni, dove ci sono le mattonelle, dove ci sono i corduli, stavo togliendo quella sulla zappetta. Adesso finisco e passo la scoppa, dai, ci sentiamo dopo. Gara. A dopo. Ma io Antonio, come te la compri la villettina in campagna? Se mi compro là? La una villettina in campagna. Ah, la villettina in campagna. Appena faccio il coso. Qui devo fare la successione. Quando facciamo la successione con Giovanna, allora voglio tentare di liberarmi questa casa e comprarmi una in campagna, qua vicino, a Monte Bianchino, a Coso, a dove c'è l'alberghiero, a me sono vicino al circolo, capito? Devo fare, vado a piedi, sono tranquillo. E fai così ti tocca a travagliare. Ma vai tu a Claudio, che è sempre travagliente, vai travagliente, di più di quando travagliava. Venito con un giro della campagna, che per sempre roba da va, in chi via non rimane in vemolo. Così è, sempre a fare, c'è anche per poi roba tua, devi pulire, fare, mia adesso domani. Mi arriva del materiale, il plessiglass, il policarbonato, devo chiudere dietro il cavello, anziché mettere delle finestre metto dei vetri, così il policarbonato. Se no mi porta via la luce e Nagio la va. E Antonè, non stai a contare, 5 anni è che io stavo contandomi, 5 anni, sempre contendi, 1, 2, 3, 4, non mi decidevo mai. Alla fine non l'ho contato più, meglio. Ho venduto l'appartamento di Sassari e mi sono preso questo. E sei rinato, Antonio, sei rinato. Ti giuro che io non ci credevo, ma c'è da fare. Ma non che non ti rompe le balle più nessuno. Capito? Tutto qua. Va bene, dai, che finisco e poi ci sentiamo dopo. A dopo, ciao a tutti. Ciao, ciao, Cla. Ciao, Cla, comunque un consiglio, te lo posso anche dare, a posto di usare la moto zappa e invece spugliatore, se prendi un paio di pecore, hai capito? Le molle lì, stai tranquillo che erba non le trovi più in giardino. Almeno c'è il latte, quando vuoi si fanno gli agnelli e non ci bisogna andare al macellaio. C'è il latte poi. Cazzo da ruba di vita, pastori. No, dov'è? Cioè, guarda, anche il toserba che mi siedo, cioè io, mi ho comprato tutto attrezzato al giardinaggio. Adesso te ne dico una. Quando ero a lavoro in un impianto proprio vicino a Usilo, ok, ci è saltata proprio l'idea a me e al mio collega a testa di sesso, per non dire altro, capite? Claro, noi tagliamo l'erba, amici, Antonello, si chiama così anche quello lì, Antonio, vabbè dai. Cioè Antonio, mi facciamo entrare le pecore, lasciamo il cancello aperto e così. E lui si ferma, Antonio. E lui già, ma tu, chi andava, sa bene, ma chi era. Lei ha rotto. C'era un viale, cazzo, tutto pieno di rose. Ma belle, belle. Entrano queste pecore, Antonio. Si è rimaniato tutta l'erba, andava. Si è rimaniato tutti i rosi e ani gagado tutto. Ma ti dico che ci voleva, cazzo, l'articolato per portare via la sporcizia delle pecore. Ma un odore, una puta, una cosa. Manca a fare la porta è arrivato un dirigente a sorpresa. Allora sai cosa ci ha fatto? Ah, io mai in vita mia ho preso una lettera di ammonimento. E figurati che ero responsabile, mi è andata anche bene se non mi buttavano fuori. Abbiamo preso due lettere di ammonimento, capito? Per negligenza al lavoro. Immagina di dusci, torna a far entrare il bigolo dentro un gaser. Guarda, una bella idea quella. E a me non usi di cespugliatore niente. Basta due pecore, maschio e una femmina, è già a posto. C'hai il latte, c'hai il coso, c'hai la carne fresca, hai capito? Meglio con il maglialetto, cioè, il maglialetto è una cosa allucinante, buia. Se vengono i cosi, cazzo, ti trovano il maiale, guai, se fossi fregato in casa, e ti mettono un casino. Perché vuole controllato. Ma almeno le pecore, quelle che non te le toccano. Se no mi ti pegli un paio di capretti, li metti lì all'ingresso, sono addestri, come quello che avevo io la veterinaria, mi appena entravi nel cancello, Marco Buongiorno ti chiedeva, vedi con la testa bassa, già pronto che si puntava. Se non ti conosceva ti rappava in terra, ti rappava. No, mi interessa. Ancora già posso fare, dai. Poi mi diverto anche con la vasa erba, capito? Mi diverto perché è tipo un trattorino, no? Già lo sai, c'è il cestello, ti fai un girettino. Mentre le parti dove ci sono i rughi, la roba dura, quella la taglio con il cespugliatore. Ma per fartela breve, mi Antonè, oltre alla lettera ci ha fatto pulire tutto il piazzale, ma già cante la mano. Tutto spazzato, tutto pulito e tutto lavato a pulivapo, l'ha giudito da me, quella che mi la matta e te ne vai a tirare i begoli, ti confini a tagliare l'eba, ma vai facciamo due lì, cazzo, buca di metà di begola, mai più, vai, no, a mare, due di begoli, dai, ci sentiamo dopo. Allora, a me l'avete risparmiato, la pulizia, ma dopo la merda, uia, per carità. Avanti, Natali. Sì, Auguria, però non ti rompe le balle nessuno, lì si tagliava una ziminata, dirà vai, hai la ruti, a ruti, non ti rompe le balle nessuna che sei in casa tua. Io invece in condominio non sei mai in casa tua, ma compreso. E se non stai attento ti denunciano pure, se poco a poco ti arrivi a far fiago di fumo o qualche qualsiasi altra cosa che non puoi fare. No, qua c'ha la... Sa dove c'ha il cucino, il terrazzino, anche la carne. Capito? Solo che adesso mi piace più mangiare pesce. Capito? La carne la sto diminuendo perché cazzo sono ingrassato con un maiale. Capito? Potrei mangiare salsiccioni, bistecche, cose del genere, ma la carne sta cominciando già a farmi male. E adesso faccio pulizia delle vene, tolgo il colesterolo, tolgo tutto quello che c'è, di nuovo, me lo rimarchisco, questo poco da mi ha ammazzato, piace. Invece io già sono magro. Sì, vabbè, ma non è mica grasso, è sempre stato normale tu. Non è grasso grasso, quindi figurati, no, io l'ho ingrassato. Fatto stare fermo qui, cui cucinare carne, cose del genere, carne di cavallo, salsiccione, bistecche, quella roba lì, capito? E quello fa male al corso. Già lo so. Io mi aspetto un attimo che devo fare cosa qua. Ci sentiamo più tardi, al limite, se ci sia, Antone. E via, va bene, non c'è problema, ci sentiamo dopo, dai. Ciao Robè. Ciao Giulio, vabbè, casa combinata. Sì, vai mettendo un po' a posto, stavo qua. Adesso sono sceso, ero su in massata. No, ero in stand-by, ho acceso già da un quarto d'ora, ho provato a chiamare un paio di volte. Non c'era nessuno, allora ho girato un po' in altri canali, avrei, cioè, per ascoltare qualcosa. Ok, no, io ho acceso e sono salito su, come faccio sempre. Lo accendo per scaldare e basta, niente di più. Poi sono sceso adesso, ho terminato con quello che stavo facendo, per cui andiamo a vedere e non c'era nessuno, e invece ci sei tu. Sì, vabbè, ti ammazzo allora. E credo proprio di sì. E va bene, dai, comunque. No, quando c'era Antonello, c'era, e poi che c'era? Forse c'era Natalino anche, Antonello e Natalino mi sembra. Ma io non mi sono fermato, ho acceso e basta, e me ne sono andato su. E adesso che sono risceso non c'era più nessuno. Ma ci sei tu e ci sono anch'io. Già, vabbè, pochi mamone, come dicono. Dimmi una cosa, ma tu accendi anche la mattina giù? Sì, anche la mattina accendo mattina e sera. Faccio scaldare e poi chiudo, anche se non parlo. Anche quando non parlo, quello qui è acceso sempre. Magari rimane 2-3 ore acceso, di mattina e di sera, capito? Questo quando non esco, se poi qualche volta esco, allora no, allora lo tengo spesso. Ma non c'è nessuno, la mattina lavorano tutti più o meno, eh? No, alle volte, ad esempio, quando è oggi ho sentito Luca del Monte, poi delle volte, molto spesso sento Eugenio, quando lui è libero di mattina, e allora chiacchieriamo con e anche Natalino delle volte sento. E qualche volta, prima però, non adesso, adesso è un po' di tempo, prima ho sentito qualche volta anche Claudio. Sì, diciamo insomma di un po' di meno, perché c'è altre cose da fare, è più impegnato. Prima, certe volte di mattina c'era, diciamo, giorni festivi, parlo il sabato e la domenica, qualcuno lo sentivo, ma a Val di Manzano non è manco di domenica, raro, me, poche volte. Lo so, ormai diciamo che la gente sta abbandonando tutto qua, il baracchino lo sta mettendo da parte proprio. E vabbè, che cosa vuoi fare? Anche la sera, prima, sempre più presto, la gente se ne va. Magari dice che sono io, verso le 4:30, 5, suppongo. Io a quell'ora mi sto guardando il ciclismo, e dunque perché c'è il Giro d'Italia, no, in questo periodo. Per cui non lo so. Però quando salgo, magari tante volte non c'è nessuno, allora accendo e lo lascio acceso fino alle 8:00, anche se non c'è nessuno. Lo stai seguendo? Ti piace del ciclismo? Sì, l'ho sempre seguito, il ciclismo io l'ho sempre seguito. Il ciclismo, l'atletica leggera, il calcio, anche il pugilato l'ho sempre seguito. Poi cos'è che ho seguito? Ma non più di tanto, però altri sport. Come ad esempio la pallacanestro è bellissima, ma non mi piace. nuoto lo stesso è bello, molto bello, forse anche lo sport migliore in assoluto, però non lo seguo, non mi piace più di tanto, capito? Il ciclismo così poco poco, io, ma non è che sia grande appassionato, nel senso quando c'era Pantani, quando c'erano le salite, per me Pantani era un po' entusiasmante, così quando c'era Alberto Tomba degli sci, anche se era un antipategone, così lo seguo. Come stanno andando? Chi c'è? Sempre quello colombiano primo, no, non lo so neanche, forse io ascolto Radio Sportiva, tu l'ascolti Giù? Buonasera. Ciao Gianfra, stavo dicendo, ascolti Radio Sportiva Gianfra? No, non mi piace, non seguo alcuna trasmissione sportiva, preferisco farla appena posso. E tu Giulio l'ascolti? Sì, tante volte quando la notte mi sveglio molto presto, anche durante il giorno lo seguo sempre, sul 95 mi sembra, 1.5 se ricordo bene, metto le cuffie e ascolto. Sì, però è una trasmissione interessante, però è a giro, una volta finita inizia di nuovo da capo, è sempre lo stesso per l'intera giornata, è così io, Robe. Ciao Gianfra, intanto, avanti Gianfra. E oggi sono un po' in ritardo, sono io, perché sono un po' imballato, perché ho fatto il vaccino e quindi dà un po' di stanchezza, di quelle cose lì. Lo sport mi piace farlo quando posso, ma il mio sport è la bicicletta, no? L'ho fatto anche sabato e domenica, e adesso se sono fatto bene questo sabato, speriamo, perché due o tre giorni mi hanno detto qualche disturbino lo dà, quindi bisogna un po' riservarsi, ma vediamo come si mette la cosa. Riprendi Roberto. Sì, anche io giù la notte l'ascolto, io dormo poco, mi sveglio la notte un paio di volte, ce l'ho nel letto, la radiolina piccolina a basso volume, piano piano, c'è quello che, come si chiama, ti ripetono ogni paio d'ore, diciamo, quello degli ultimi due giorni o degli ultimi tre giorni. Comunque adesso parlando di sport, Inzaghi, il nuovo allenatore dell'Inter, l'ha letto poco fa la Rai, ultimissima. Sì, Inzaghi, e io ho letto che va alla Juve. No, Allegri era la Juve, quasi, diciamo, deve mettere solo la firma, ma poco fa, pochi minuti fa la Rai l'ha ascoltato, e tra l'altro già fatto, parlando al discorso di ieri, a 660 kHz, Rai 1, in corso, in onde medie, giù, l'ha ascoltato, ha migliorato comunque, si sente un po' meglio degli altri giorni, con la potenza, con il segnale lì, e poi c'era un segnale, tornando al discorso nostro, già fra, intorno agli 80 kHz, una radio, un segnale digitale, non so se sia qualche segnale campione, perché è un rumore strano, indecifrabile. Di nuovo a te Gianfra. Sì, il fatto che c'è molto rumore in questi giorni, perché evidentemente sono queste giornate un po' che cambiano da caldo a freddo, eccetera, eccetera, quindi non è molto agevole l'ascolto. Infatti stavo pensando di costruire una cosa, una loop, in modo da diminuire un pochettino il QRM, il QSB che si sente, perché a volte è esagerato. Quindi sì, sono interessanti, forse è meglio l'inverno sotto quell'aspetto. Riprendi Giulio. Ok Gianfra, sì, ma ne stavo parlando anche ieri, non mi ricordo con chi, con Natalino. C'è troppo rumore, è una propagazione quest'anno molto strana, perché i segnali sono molto forti, però è la radio che non è chiara come prima, come altre volte, ma ho pensato che ancora magari non si era aperta bene completamente, dipende sicuramente dalla ionosfera, vediamo un po' che più in là, magari verso giugno si dovrebbe aprire proprio bene, cosa dice, giugno apri il pugno, no? Per cui dovrebbe andare bene anche per la propagazione, perché anche ieri stavo parlando con Natalino, è una propagazione molto sporca, forte di segnale, però forte anche di rumore, soprattutto quasi incomprensibile come modulazione. Va bene, dai, comunque va bene così. Sì, tornando al discorso della radio sportiva, la seguo, tante volte anche di giorno, ma ripeto, stanotte ad esempio, una volta che hai ascoltato quello che dicono, e poi iniziamo da capo, perché è una registrazione sicuramente di quello che è successo durante la giornata. Avanti, vabbè, hai visto che Conte si è dimesso, se n'è andato dall'Inter? Conte è troppo furbacchione, lui vuole la squadra già pronta, non è che vince, cioè lui ci prende tutti i meriti, cioè non è il classico allenatore tipo come Gasperini, mi è antipatico anche Gasperini tra parentesi, però con quei giocatori riesce a farli giocare nel migliore e meglio e sfruttare al massimo le loro caratteristiche. Conte lui deve avere tutti, in ogni ruolo deve avere il top dei top, e cazzo, poi ci prende i meriti, abbiamo fatto qua e là, ma troppo vasto di così, fai una squadra invece, va a giocare, allenare il Cagliari per fare un esempio. Esempio, dove c'è una squadra mediocre, la Fiorentina, il Torino, e devi far vedere quello che sai fare. Troppo facile che a te ti danno una corazzata al Real Madrid o al Barcellona, lo prendo anche io, quelli giocano da soli quei giocatori. Tu gli dai un po' di stimolo perché gli tiri il collo, eccetera, eccetera. Ma non è che hai inventato niente nel calcio, l'hanno troppo esaltato a questo Conte. A me sinceramente non mi è mai piaciuto come allenatore, preferisco molti altri allenatori e basta. Adesso chissà, io l'avrei lasciato senza far niente, cioè non l'avrei fatto contattare da nessuno, vai a rimanere a casa tua, come avrei fatto al signor Donnarumma, a me. Hai visto cosa ha combinato? Anche quello Donnarumma è un grandissimo imbecille, perché non è possibile, ragazzi, che un ragazzo di 20 anni che possa pretendere 10 milioni l'anno di stipendio, ma quando mai? Hai visto però il Milan cosa ha fatto? Ha fatto bene Maldini, che l'ha messo alle porte, aria e via, dice non ti voglio più, e si è preso il portiere campione di Francia, hai visto? E paga appena 3 milioni, e ora di smetterla con tutti questi soldi che vogliono questi giocatori, ma è una cosa veramente schifosa, non si può, ma è chiaro che poi tutte le società sono tutti quanti indebitate, e affitta 300, 400 milioni di debito ogni società di queste società, tra le più grandi, dai, come Juve, Inter, Milan, queste squadre così, ma non è possibile, dai, non è possibile, assolutamente. Io mi auguro che non lo prenda dalla Juve, perché quanto sembra Donnarumma non vuole prendere la Juve, ma io non gliel'avrei mai dati 10 milioni per un portiere. Guarda che il portiere è forte, quando la difesa è forte, se è una difesa forte che sa chiudere tutto, che sa chiudere bene, il portiere prende pochi gol, ed ecco quel portiere diventa un grandissimo campione. E così è lo stesso discorso anche per l'allenatore, se ha grandissimi giocatori l'allenatore può incidere sia no al massimo un 10%, come fa Conte, che li spreme quei giocatori e molto spesso li crepa, per cui non va bene per conto mio, non è un grandissimo allenatore Conte, oltre al fatto che è anche maleducato. Avanti Gianfra. Io non posso dire niente perché nell'argomento ho la massima ignoranza, so che dite dei cognomi, però non so neanche di cosa sto parlando. Riprendi Roberto. Che lo so, ce ne sono, e stanno aumentando comunque, non per difenderti Gianfra. Allora, sino a 15-20 anni fa era impossibile che uno non ascoltasse il calcio, non si interessasse di calcio. Adesso lo sai quanta gente sta, per me stanno aumentando in modo esponenziale, dopo tutte queste schifezze di super pagati, procuratori allucinanti. Cioè tu non devi considerare lo stipendio di per sé, Giulio, perché Donnarumma ne voleva, il Milan ne ha offerto sino a è arrivato, sono arrivati prima a 10, poi 12, adesso 13 milioni di euro ha offerto, però oltre a quello ci sono circa non so quanto, un'altra decina di milioni di euro come provvigione per il procuratore, e poi non so cosa, perché tu lo stipendio vero e proprio, quello è il netto, poi c'è l'ordo, ci sono da pagare le tasse e tutto quanto, alla fine uno stipendio di 8 milioni di euro sono 15 effettivamente. Adesso conto, lo sai quanto prendeva al coso, all'Inter? 12 milioni di euro, ma ti pare un allenatore devi dare 12 milioni di euro? No, non sono assolutamente d'accordo. Intanto io sono sempre dell'idea che dovrebbe intervenire lo Stato, il governo in queste cose qua, perché anche se le società sono società private, però sono anche finanziate dallo Stato, perché prendono soldi anche dallo Stato, oltre che dalla federazione. per cui non va bene assolutamente che questa gente prendano tutti questi soldi, perché è la rovina del calcio, è veramente la rovina del calcio. E lo vediamo che tutti quanti sono sul loro del fallimento. Infatti tutti gli anni c'è sempre qualche squadra che fallisce. Io dico solamente una cosa, ma per quale motivo tu, società, devi dare tutti questi soldi a un giocatore che poi magari durante l'anno si può anche infortunare? Speriamo che non succeda mai, naturalmente, perché soprattutto per salvaguardare la salute dell'uomo ci mancherebbe altro. Però succede, perché è successo tante volte. E tu hai speso una barca di milioni, ma ad esempio prendiamo l'esempio di Ronaldo, grandissimo giocatore, tutto quello che vuoi, però da solo, hai visto, non vince niente da solo, non c'è niente da fare, al limite si è limitato alla Juve a vincere il campionato due volte con lui e qualche coppa così, ma niente di più. Ma tutto questo perché? Non è solamente mito di Ronaldo, perché c'aveva dei squadre, c'aveva i giocatori, c'aveva. Oggi che i giocatori sono diventati dei cadaveri, non ha vinto niente, a malapena è riuscita a qualificarsi in Champions. No, non è possibile, guarda, assolutamente no. Io non accetto queste cifre così esorbitanti, perché è vergognoso. Se pensiamo che c'è gente nel mondo che muore di fame, che non ha da mangiare, che non ha acqua, e questi caspita se la smappano e possiedono fuori serie macchine, ragazzi, da 2-3 milioni l'una, no, come Ronaldo, prendiamo roba di 7-8 di queste macchine, vergognoso. Avanti, Gianfra. Break, sì, c'è un break, lo faccio subito andare avanti. Sì, ma comunque, Robè, riguardo al fatto che la gente sta diminuendo, che lo segue, è normale, perché tutta una questione commerciale ormai. Ripeto, io preferisco farlo, io faccio bici e mi va benissimo. Stare lì a vedere questi che fanno sport addirittura mi fa anche male a volte. Quindi non male nel senso di anche quando vedo il giro. Io sono a casa, onestamente sono invidioso, quindi preferisco prendere il mezzo, andare in giro e allora sono contento. Non starmene lì e non me ne fa niente di commentare quello che fanno gli altri. C'è un break, avanti, buonasera. Buonasera a tutti, Antonio sono. Buonasera. Ehi, ciao Antonio, ben sentito, vai giù. Ok, ciao Antonio, ben entrato, dai. Ti mando avanti Gianfranco per salutarti, avanti Gianfranco. Ovviamente la prima cosa che ti devo chiedere è tu sei cenato. Ancora no, stiamo aspettando la pizza, stanotte c'è un po', come si dice, un pochettino in ritardo, ecco, famo la pizza in pizzeria stasera. Comunque stavo ascoltando il discorso, io sono pienamente d'accordo, sono troppo bagabile so che c'è niente. E proprio niente che muore di fame, non sa come ti bagasse di cose. Andiamo bene, andiamo, ok? Andiamo bene, andiamo male, altro che andiamo bene. Se continuiamo di questo passo è veramente vergognoso, dai, sentire certe cifre, grazie, così. No, non accetto io questa condizione, però devo tornare indietro di qualche anno e dare la colpa a qualcuno che ha incominciato a buttare su di così alla grande. Parlo di diversi anni fa, comunque lasciamolo stare, ormai anche lui è vecchio e non ha nemmeno più quel potere. Tant'è vero che si sta vendendo tante cose sue, si sta vendendo, non capisco per quale motivo si sta vendendo tante cose sue. Non credo che sia disposto adesso a spendere come prima, comunque va bene lo stesso. Avanti, Robè. Non lo so. Però un interrogativo a cosa, a Gianfranco. Bici, cosa intendi bici? Mountain bike o bici da corsa? Ho iniziato da giovane con quella da corsa, poi mi sono interessato, siccome mi sono venuti addosso per due volte, allora ho detto forse è il caso di prendere qualcosa di più adatto a andare fuori strada, e allora ho preso la mountain bike. Attualmente una e-bike, quindi una mountain bike elettrica, che mi fa faticare più di quella normale, stranamente, perché io c'ho il vizio, non so se sia bello o brutto, di andare senza motore, quindi non facendo mai questo motore, a meno che non ci sia una salita faticosa. D'altronde, dato l'età, mi hanno anche consigliato di accenderla un po' spesso, ma vabbè, essendo ex ciclista riesco comunque ad andare. Guarda, domenica ci sono andato sabato, poi domenica ho fatto almeno 15 km col peso della bicicletta, che è enorme, sono 23 kg a motore spento, poi ovviamente facendo la salita un pochino mi do un aiuto, però di batteria ne consumo nulla quasi quando esco. Prima, cioè l'anno scorso eccetera, facevo sterrate impegnative, tipo non lo so, la salita di Monte Murone che porta a Monte Doglia, tutto Crassi eccetera. La discesa no, che ho più paura della discesa, perché andare con la testa sui sassi è pericolosissimo. Una volta ci sono caduto a testa in giù, infatti, dentro un buco, e ne sono uscito con le braccia perché i piedi erano in alto, mi sono messo a ridere da solo. E quindi mi diverte più così che stare lì a guardare gli altri che lo fanno e tu che magari sei a casa che li guardi, no? Poi è tutto, ripeto, tutto troppo commerciale. Riprendi, Anto? Sui cosi conviene andare piano, conviene andare, perché scivola maledettamente le pietre. No, io vado piano sulle pietre, non corro. Effettivamente sono serrato e in discesa, è pericoloso, non ci vuole niente a scivolare con la bicicletta, certo. Lo so, purtroppo su strada sarebbe l'ideale, però c'è troppa gente un pochino con la testa bassa e allora è rischioso che ti investano, perché succede molto molto spesso. Non va bene, una volta magari c'era meno traffico ed era più sicura la situazione, ma oggi con tutte le macchine e tutti i pirati che ci sono nella strada, andare con la bicicletta, ma non solo con la bicicletta ma anche col motorino, è pericolosissimo. Oggi l'unica soluzione è con la macchina e con quattro occhi, non con due, ma bensì con quattro occhi, per fare sempre più attenzione, perché non è possibile continuare in questo passo, assolutamente. Dai, Robert. Non so, adesso poi le strade sono sempre quelle di 30 anni, 40 anni fa, a parte qualche strada un pochettino più manovrabile, diciamo, però stanno aumentando di gran lunga le macchine, e poi adesso oltre le biciclette adesso ci sono i monopattini. Io vedo cosa combinano quei monopattini, rimango scioccato, nelle rotature, no? Non se ne frega niente della precedente, ma come che stiano camminando così, senza nessuno? Ho visto una scena stamattina, questo qua è entrato contro mano, dove abito io, così un altro di quelli, come si chiama, Pony Express, questo qua c'ha il cassonetto dietro con altre ruote e davanti guida. Io ho detto qualche giorno lo schiacciano forte, questo entra sempre contromano, entra nel senso, la strada è doppio senso, e questo è convinto che sia il senso unico del resto, perché non è possibile che uno entri in quel modo lì. È già due volte che lo vedo, stai attento, da te qualche giorno te ne pranciano forte. Poi questi monopattini allucinanti, se non prendono qualche direttiva di coso, qualcuno lo investe pure. Guarda Robert, camminano più della mia mountain bike questi. A Alghero ne ho visto tanti, sembrano degli zombie che camminano, perché fatica non ce n'è, non c'è nulla lì proprio, non è una cosa che... non posso spiegare, sono rigidi, i piedi, con questo affare che sfreccia a oltre 20-25 km orari, se poi non è pure truccato, al primo buco capotta deve essere, cioè, è veramente una stronzata che hanno fatto. Io i contributi veri per quello non li avrei dati, per le bici sì, perché devi faticare, per quelli aggeggi lì che sono tutto motore e basta, senza sforzo, no, ti dico un pareggio, senza contributo. Qui ce l'ha troncato i rossi, boh. Che poi tra l'altro hanno dato il contributo già fra per quelle cose lì, che poi sono tutte di fabbricazione straniera, non è roba italiana, per cui i soldi italiani vanno a finire nelle tasche della Cina o dove vanno, non lo so di preciso, per dire, oh, è una vergogna, grazie a quel famoso ministro che c'era, bravo, proprio intelligente soprattutto, per non parlare poi dei banchi, sei banchi con le rotelle, e quelli poi, un'altra cosa ancora peggio, non è possibile, che milioni e milioni di spesi in banchi per poi essere appoggiati in qualche magazzino, magari che si arrugginiscono, che si marciscono, si sa quanto prima, non è vergognoso veramente. Vai Roberto. Ciao, tocchiamo voltato giù che io mi arrabbio, cioè quando mi detto, stavo parlando quando ieri o avanti ieri di uno stesso con Gianfranco e di sperperi e di cose che abbiamo in Italia, quello dei banchi, 70 milioni di euro buttati nel gabinetto o cosa, cose inutili inesistenti, perché invece mia sorella, le insegnanti li hanno portati, ce li hanno tutti via subito, perché ce sono pericolosi, perché poi ci mettevano a giocare i ragazzi, soprattutto delle medie, che sono già, ma i piccolini, gli elementari riesci a controllare, ma quelli delle medie, diceva una cosa pericolosissima, scomodi da star seduti, non puoi mettere niente, diceva una cosa allucinante, mamma mia, io quando sento parlare di quelle cose, ma infatti ne puoi, sta diventando una cosa, chi lo fa più veloce, io ho visto delle immagini a 70 km orari col monopattino, non so cosa vuol dire camminare a 70 km, non parliamo delle biciclette che dovrebbero essere con pedalata assistita, non più di 250 watt, ne ho visto anche a 1500 watt, cose che camminano più della moto, cioè fanno oltre 60-70 km orari, e di lì dovresti avere, cioè sono fuori legge perché devi avere l'assicurazione, ci vuole patentino, il casco eccetera eccetera, indicatori di direzione e tutto, adesso queste biciclette stanno diventando peggio delle moto, più pericolose delle moto. Sta diventando un casino, sta diventando un casino. Io ho provato il monopattino, bacca di dai, sì, divertente, ma non è da dare a ragazzine. Io sinceramente a mio figlio non glielo darei una cosa del genere. La bugia c'è pure un monopattino per tranquillizzare i padri, cioè, perché è una cosa troppo pericolosa, non sa le regole, non sa niente. Hanno uno che di gazzigheggia, che non comprende nulla, non sa precedenza, è nulla. Anche il buono è guai, un babbo di famiglia che deve andare a travagliare. Lo buono è guai che magari lo gazzigheggia con la macchina, perché non sai che la legge è anche stupida, cioè mettono nei guai a te piuttosto che... cioè che prendersi la colpa, non lo so, vai giù. Okay. No, ma poi c'è anche da dire questo, con questi monopattini camminano sui marciapiedi, non è da molto tempo che è stata investita anche una persona, l'hanno fatta cadere, ha battuto la testa e lei è anche morta, tra l'altro. Io sono convinto che prima o poi questo fatto dei monopattini, se continuano ad usarlo, metteranno anche obbligatoriamente l'assicurazione, perché non è possibile, perché sono pericolosi nel vero senso della parola, è vero. No, ma io avevo filmato, nel telefonino che me l'avevano mandato, e vedevo su un'autostrada un monopattino a 98 km di velocità, dietro c'era la macchina che lo seguiva e inquadravano il contachilometri della macchina per far vedere la velocità di questo monopattino, una cosa vergognosa veramente. Vabbè, quelle sono io cose che la gente non dovrebbe fare, perché invece prendono e truccano, a quelli ci sarebbe da tagliargli la mano quando fanno certe cose. Comunque io vi devo salutare, mi hanno chiamato per la cena. Ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Gianfranco, ascolto il finalino e poi chiudo, dai. Grazie a tutti per la chiacchieratina, ci sentiamo domani. Avanti Gianfranco. Sì, vabbè. Ciao Giulio, buona giornata, buona cena e alle prossime. Comunque andare in autostrada con quei mezzi è vietatissimo, quello lì era passibile di essere preso e messo sotto uno schiacciasassi. Poi queste cose fanno anche tanti fotomontaggi comunque, quindi non prendeteli per lo coatto. È tutto, ci sono molte fake news in giro. Riprenderò per i saluti a Giulia. Ciao Giù, mi hai sentito? Buona carica, buon tutto. Anche io adesso interrompo, poi magari se c'è qualcuno ci sentiamo più tardi, dai. E ciao Gianfranco di nuovo, ciao Antonio, se ci sei ancora, se non sei andato a mangiare la pizza, e di nuovo Giulio, dai, correti da parte mia, poi se ci siete magari dopo ci possiamo sentire, ciao ciao. Capo, dai, ciao Antonio e Giulio, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ok, ciao di nuovo a tutti e tre. Comunque per la cronaca, ho già fatto, adesso che hai fatto il vaccino, io l'ho fatto ieri sera, ieri hanno il pomeriggio, hanno il pranzo, la Pfizer, a me mi hanno fatto Pfizer, va bene, ci sentiamo, il prossimo vaccino per il richiamo sarà per il 3 luglio per me, va bene. bene, ciao Gianfra, di nuovo, salutoni a tutti, dai, ciao Roberto e ciao Antonio, chiudo. Sì, per un giorno non ci siamo trovati, perché il mio richiamo è il 4. E tu l'hai fatto ieri e l'ho fatto oggi. Ok, adesso devo ripetere il 3 luglio, per cui va bene voi. Ok, quando fate il vaccino dei ricchi, quello che costa di più, è Pfizer. Questa è una battuta spiritosa, eh? Ciao Giulietto, come quello che hanno fatto a me, quello dei ricchi, delle persone che contano. E allora, ciao Natalia, ciao, ci sentiamo, dai, chiudo, vado a cenare, si fa, si dice così per dire, poi ho regalato il bacino, comunque, saluto a tutti di nuovo e grazie per la chiacchieratina, chiudo, ciao. Ciao Giulia, alla prossima. Buonasera Natalina. Buonasera Gianfra. Ciao Giulio, buona cena. Là. Avanti. Chi altro c'è? Antonio Messere. Capa, c'era. Aspetta. Hola. Ecco qua. Adesso è stato bene. È già un'apparazione. Sì, ci c'ero io e coso, Roberto. Oggi Roberto ci sei ancora? Roberto non vedi più. Ok, riprendo la pali. Ascolta, io mi iscrivo. Riprendo per salutarvi che io vado a riposarmi la gamba, sono andato a fare un favore. A un'amica gli hanno messo la multa e gli ho dovuto spostare la macchina, perché non avevo mai barchigio. Un macello io. Vabbè dai, vi saluto che vado a riposarmi la gamba, chi mi va, di gusti in mari. Capo, non ti preoccupare. Ok. Avanti Gianfra. Sì, ciao Roberto, sei ancora all'ascolto. Buona cena. Ciao anche Natalino, riguardati. Quelli sono dolori dovuti allo sforzo acidodattico. Ti riposi e piano piano ti passa. Allora Anto, questa pizza com'è? Non è arrivata ancora, no? Aspettare. Sarà per arrivare, sarà. Fra un po' mi chiamano. 4 stagioni, alla salsiccia. Antunna e gorgonzola. Ah, sempre leggera così. Così almeno la digerisci subito. È buonissima! Forno elettrico scommetto? No, la prendo in via Grazielenda e la fanno col forno a legna, capito? Sì, quasi tutti oramai la fanno così a legna. Io la prendo, a Canica, credo. Sì, a Canica. Mentre la fainella prende la latte dolce. Mandi due a pigliare tira però. Sì, vado io, poi mi faccio la corsa quando è fainella, cioè abbiamo un coso termico, no? La porto a casa, arriva calda calda, anche se sono quanto è, un pochino più di 8 km forse, però sai, non è tutti i giorni, quindi si può fare. Tu già ti sei uscito, cioè lì nella zona Monte Oro, così? È un po' più lontano, perché praticamente sono dove, come dire, c'è presente la stazione Molaffa, un po' prima di arrivarci. Sì, sono andato un giorno in bicicletta. Ah, quindi sei un collega. Capa, io ho la bici elettrica. Sì, anch'io. A causa, ho dovuto optare per quella, a causa dell'età, perché sono già grandicello e quindi, siccome voglio andare lontano, sempre no, c'è questa mania. E mi piace molto le salite, però mi hanno detto di non forzare troppo perché già sono messo male con le cerniere che scricchiolano. E quindi quella elettrica perlomeno mi evita di infiammare ulteriormente le cartilagini. Capa, hai fatto bene. stavo dicendo, invece anche io, oh, comunque qua arrivi fortissimo, per essere in quella zona, caspita, sei cazzo, oltre 9,20 mi. Sì, ma io sono tutti come, non sono altissimo, purtroppo. Però su Sassari ho la linea ottica, anche su Tissi. Tissi vedo la gente che passa, le macchine che passano. Quindi vedo Usilo, se tu accendi i fari, vedo Usilo, io ti vedo. Idem anche nella parte alta di Sennori. Insomma, è molto aperto. Capo, io non so quanto ti arrivo, però qua tu sei forte un bel. Non dovresti essere intorno ai 9,20. Anche tu sei forte. Con la differenza che magari tu sei più forte di potenza, io ho una potenza di un watt e mezzo, perché questo è un apparato particolare, di più non dare. Beh, se non vatte e mezzo sei tanto, non lo so pensare se è buona a 10 watt. E 10 watt ce l'ho in FM, perché è un apparato usato prevalentemente in FM, quindi da 10 watt. Lo stesso in digitale, sempre 10 watt. Tutto lì. Gabba, no, va benissimo, caspita, va bene. Cioè, per essere 10 watt, 9,20 qua è tanto, Lo so, ma se accendo l'altro, quello piccolino, io ho piccolo qua da 4 soldi, 80 euro, so che la radio è brutta, perché di quelli proprio, non dico giocattolo, ma quasi, è fino, una cosetta proprio piatta. Lo puoi mettere in tasca, però quello c'ha 4 watt e mezzo quasi. È buono. Chiappa, io sono incredulo che tu usi un watt, perché un watt è veramente poco. Non è detto che sia poco. Se tu pensi che, tu guardati, tutte le radio militari hanno delle basse potenze, poi volendo hanno gli attacchi e vanno su potenze più alte, però usati così a spalla, in portatile, eccetera, hanno un watt e mezzo, giù di lì. Capa, perché un watt e mezzo non è un granché, cioè non dovresti arrivare così forte. Qua sei fortissimo. Cioè, sento a credere che tu stia utilizzando quella poca potenza, mi. Lo so, però devi anche vedere come è fatto l'impianto. Il cavo costa quasi quanto l'apparato. Ci sono circa 30 metri di cavo, però è il meglio, messo i paloni. L'antenna e la Game Master c'è un tubo da sei oltre 14 metri, sarà 15 metri, più l'antenna. Vuol dire che ti vedo, se no non ti avrei sentito così bene. Vuol dire che io ti vedo, se no manco per idea. Io da qua vedo il Duomo, la cupola del Duomo, il coso lì dove c'è la questura, vedo la questura in linea ottica, l'antenna questura, e quindi in tutta quella zona c'ho visuale libera, vado in diretta. Pensa che in UHF, che è molto ottica, col gommino in digitale sento sta Sassari senza problemi. Tu mi chiami da gommino a gommino con la potenza usuale dei portatili in UHF 4 watt, io ricevo senza problemi. Se vedi quello già un grido che mi arrivi così forte, perché io il Duomo, se mi affaccio lo vedo, apro la finestra lo vedo già un grido, mi la fissa. Ok, ci sentiamo. Diamo che si in visione ottica, se vedi il Duomo vedi anche me. Quindi, ok, ci sentiamo, arrivato la pizza. Ok, buon appetito. Oh, ciao, ci sentiamo. Thank you. Vabbè, ciao Lu. Allora. Mi sono rientrato adesso. Cappa. Io mi sono qua. E allora. Seguì, che sta? Ho un mal di testa poco fa, mamma me la ammazzetti. Ah, vero? La prossima settimana si parte, si dice. Io oggi ero anche al dentista, sono andato all'1:30 e ho finito alle 2:30, 3:15. Mi ha rotto la balle. Mi ha fatto una rotolazione con un dente, che era guasto. Forse devo andare il 3 e l'11. Ah, stai guardando il video? E il video? No, oh, quello che ho fatto io, che c'è la bada roba a magna, bastate. Ecco, c'è. Sarà che si buzzi in orsi, sarà. Cioè, una vaschetta di gelato, cazzo, da 3 kg e più. Da voi c'è la bada.